Dopo l'ennesimo flop nel derby, si riaprono le primarie nel Milan. Inzaghi attacca. Questo Allegri è da rottamare. L'amico è uno che ha molta gelosia di te. Per ogni tua pazzia ne fa una malattia. Tanto che a volte ti viene voglia di mandarlo via.